24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8, 16 minuti e 30 secondi di questo martedì 21 aprile inizia la terza parte di 24 Mattino. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Simone Spezia. Maria Latella, buongiorno, eccoci. Buongiorno, buongiorno Simone, buongiorno a tutti gli ascoltatori con i nostri consueti radar su quello che succede ai paesi vicini. Vai. Allora, vi leggo questo attacco dell'articolo. Non ci legge niente, Maria, perché è caduta la linea. Vediamo se riusciamo a ripescarla. Maria, ci sei? No, non ce l'abbiamo, è andata giù la linea. Allora, salutiamo il primo ospite, va intanto. Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, buongiorno, come sta? Buongiorno, bene per come si può star bene. Certo, contagi zero a Napoli, no? Una buona notizia. Ieri sì, ovviamente, magari oggi ce ne sarà qualcuno, ma era ormai l'ultima settimana, erano una media di 4-5 al giorno, quindi stiamo in una fase sicuramente positiva. Una fase positiva, De Magistris, e la necessità ovviamente di ripensare città complicate, magari come quella di Napoli, alla luce appunto di Covid-19, delle nuove norme di distanziamento, dei trasporti pubblici. Come state lavorando? Stiamo lavorando già da un po' per quella data che noi ci auguriamo possa essere l'inizio di una graduale ripartenza, cioè il 4 di maggio, cominciare con i cantieri, ovviamente con la sicurezza, le fabbriche, i luoghi di lavoro, le uscite di casa. È necessaria questa nuova fase perché dal 4 maggio staremo a quasi 2 mesi. Considerate che Napoli è partita anche un po' prima del governo, perché abbiamo fiutato quello che accadeva, abbiamo chiuso le scuole un po' prima, i cantieri, le sanificazioni. Ormai la gente è pronta per ripartire. Dobbiamo dare soprattutto ossigeno alle attività economiche. Noi per esempio con una delibera di giunta abbiamo eliminato tutte le imposte per le attività produttive per l'intero 2020, lavoreremo molto sulla cultura chiaramente per far riprendere fiato anche a un mondo di cui non parla quasi nessuno ma che è necessario per la ripartenza. Insomma, proviamo a ritornare, non dico come prima perché è impossibile in questa fase, però a recuperare un rapporto forte tra lo spazio della città e le persone, tra la vita e il rispetto delle distanze. Oh, intanto noi abbiamo recuperato Maria Latella, ci sei Maria? Sì, racconto dopo quello che vi stavo leggendo, quando avremo salutato il sindaco vi dirò. Adesso invece al sindaco volevo chiedere, ma se un cittadino di Milano quest'estate volesse fare qualche giorno di vacanza a Napoli, lei lo accoglierebbe o sarebbe più incline a dirgli resta in Lombardia? Ma le ha fatto una domanda corretta perché ha parlato di quest'estate. Siccome il dibattito di questi giorni è sul 4 maggio, 4 maggio scordiamocelo di viaggiare, ma sia da Milano a Napoli che da Napoli a Milano, non ci sono proprio le condizioni a tutela del nostro paese e della nostra salute. Quest'estate io credo che se le cose vanno come devono andare, cioè nel senso che ci sarà un abbattimento forte dei contagi, si può ovviamente ipotizzare uno spostamento, ci mancherebbe altro, ma oggi è fare una previsione con la palla di vetro, perché in Lombardia ci sono ancora tanti contagi. È chiaro, se ci fossero i contagi di adesso sarebbe impensabile, se invece si va verso un contagio zero anche in Lombardia, allora quest'estate gli italiani potrebbero riscoprire il gusto di riprendere a visitare soprattutto il proprio paese, quindi un'economia molto nazionale, molto locale. Noi su quello stiamo lavorando in realtà, perché turisti internazionali non ce ne saranno nel 2020, però un turismo più low cost si può lavorare. Su quello si può lavorare, dice lei. Senta De Magistris, mentre invece su questa fase lei dice insomma meglio che i milanesi o i lombardi stiano a casa loro. Ma ho fatto un ragione diverso, non si può proprio viaggiare, nemmeno i calabresi andare in Piemonte, i veneti in Sicilia, i napoletani, dobbiamo rimanere nei nostri territori, perché la fase 1 è ancora adesso, nonostante noi al sud potremmo parlare un altro linguaggio, perché abbiamo pochissimi casi, ma io sono molto cauto, noi siamo stati molto bravi a rimanere in casa e abbiamo questi dati, però non dobbiamo correre il rischio di ritornare nell'incubo, perché poi sarebbe una mazzata dalla quale non ci rialziamo più. Adesso bisogna avere una ripresa graduale, quindi per me è impensabile viaggiare, poi saranno i medici ovviamente a darci le indicazioni, ma da quello che so non ci sono proprio le condizioni per mettersi in viaggio, se non per ragioni di salute, di lavoro, quelle strettamente necessarie ovviamente. A proposito di lavoro, sindaco, lei ha già un'idea di come si svolgerà nella sua città il ritorno al lavoro per quelle aziende, quindi quei lavoratori che potranno farlo? Come vi state organizzando con i trasporti? Allora, al comune noi continueremo lo smart working molto perché sta funzionando bene. Chiaramente nei cantieri bisognerà invece andare a lavorare in tante fabbriche con dispositivi di sicurezza, distanziamento sociale e mascherine. I trasporti dobbiamo aspettare le indicazioni del governo su quali saranno i limiti. Noi ci stiamo organizzando per fare corse con minori passeggeri, mascherine obbligatorie, insomma, poi anche per fare una mobilità alternativa. Noi punteremo molto sulle bici, che già lo abbiamo fatto in questi anni, lo faremo ancora di più sulle pedonalizzazioni, perché questo può aiutare anche ad utilizzare più suolo pubblico per le attività economiche, per le attività commerciali, soprattutto per la ristorazione. Per noi questo va bene perché siamo una città che in questi anni ha puntato molto sulla natura, sulla cultura, sul turismo e sugli spazi pubblici, ma accelereremo ancora di più. Meno macchine. Sì, meno macchine. Ecco, la parte cultura e turismo, quello è un fronte interessante dei Magistris, perché anche quello inevitabilmente dovrà cambiare profondamente, almeno per un certo periodo di tempo. Là lei si è fatto già un'idea di come potrebbe funzionare? Assolutamente. Sì, nel 2020 ci possiamo scordare il turismo internazionale. Lo dobbiamo programmare per il 21 perché l'Italia è un paese turistico. Noi ci stiamo organizzando in questo modo. Chiaramente non si potranno fare i concerti, per dare un'idea, noi avevamo il Paul McCartney in Piazza Plebiscito il 10 giugno, l'abbiamo rinviato al 2021, così come altri concerti, però possiamo fare dal Cineforum al Drive-In, agli spettacoli, alla cultura, ai concerti, se ne possono fare di più disseminati in tutti i quartieri della città, dal centro alla periferia, con dei limiti ovviamente di posti, con distanziamento, con sedie messe distanti. Napoli poi ha spazi grandi, quindi ci organizzeremo in questo modo, però molta cultura, molta vita all'aperto, e utilizzeremo molto tutti i servizi che non hanno lavorato in questi mesi, servizi sociali, di educativa territoriale, per stare vicino a bambini e agli anziani quest'estate, perché è presumibile che molti napoletani non potranno andare in villeggiatura per vari motivi, e quindi anche un utilizzo migliore delle nostre spiagge, anche quelle libere, perché non è giusto far lavorare solo, qualora si potesse andare al mare, solo i lidi a pagamento e non le spiagge libere, perché se è mare per tutti. Senta Sindaco, a proposito di scuole chiuse e bambini lasciati a se stessi, ammesso che i genitori, come tutti ci auguriamo, ritrovino il lavoro, mi può fare un esempio di come state pensando di non lasciarli soli questi bambini e questi ragazzini, tenuto conto che l'Italia si segnala per un crescente abbandono precoce delle scuole, e credo che purtroppo la Campania sia tra le regioni che segnala questa problematica in maniera ancora più, diciamo, preoccupante che altre regioni. Che cosa farete per i ragazzi e i ragazzini quest'estate? Questo è uno dei problemi più grandi, di cui si parla molto poco e di cui è molto difficile programmare, perché noi non sappiamo nemmeno se le scuole in che modalità apriranno a settembre. Pensiamo agli asili nido, il comune può fare, ma fino a un certo punto, perché questo è un tema ovviamente che attiene alle vite delle famiglie, c'è un tema anche di sicurezza sanitaria, quindi noi sicuramente metteremo a disposizione i nostri servizi di educativa territoriale, i nostri servizi sociali, tutta la rete della scuola che opera sempre sulla dispersione scolastica ed altro, per stare vicino ed offrire dei servizi, come ho detto prima, ad esempio per uscire in città la mattina, per andare, se si potrà fare, ovviamente sulle spiagge dove ci saranno attività all'aperto. Stiamo prevedendo, per esempio, con una manifestazione di interesse, più giochi e più attività all'esterno per i bambini, proprio per favorire una vita all'aperto. Ma poi ci sono dei problemi che in questo momento è difficile affrontare per le famiglie, che se si riprende a lavorare i bambini prima andavano all'asilo, non è che può intervenire il comune, perché se non si può andare all'asilo non può farlo neanche il comune. Quindi questo è un problema molto serio di cui si sta parlando, secondo me, poco, e probabilmente ci sono anche dei margini in cui è proprio difficile intervenire, quindi si dovrà alternare il lavoro tra maschio e femmina, con lo smart working, con i permessi. Insomma, noi al comune siamo organizzati in questo modo. Senta De Magistris, il fronte dei soldi che sono stati dati nelle settimane scorse dal governo per fronteggiare il disagio sociale, i famosi buoni spesa, state effettuando i controlli? Stamattina abbiamo fatto sentire l'audio, no, del sindaco di Asti, che si è mascherato, non so se l'ha visto lei, no? Si è rasato la barba, si è messo un cappellino per andare in giro a controllare che i buoni spesa fossero spesi appunto nella maniera corretta. Voi come vi state attrezzando? Ma qua devo dire dire, è andata molto bene. Per ora siamo arrivati su 17-18 mila famiglie, perché noi abbiamo abbinato un codice a tutti quelli che ne avevano diritto facendo l'autocertificazione, che ovviamente abbiamo verificato, e col codice si andava con la carta d'identità nei supermercati, quindi non c'era il buono che poteva essere falsificato, che poteva essere modificato. Abbiamo fatto le verifiche a tutte le persone che hanno avuto, diciamo, il codice e sono andate al supermercato, perché a noi poi ci arriva la chiamata con cui sappiamo se la persona è andata. Abbiamo avuto diciamo, adesso l'hanno già ritirato più di 10.000 persone degli aventi diritto, credo ci sono state o una, massimo due violazioni. Sulle domande invece fatte ne abbiamo dovute scartare su 16.000, credo un migliaio, 2.000, che erano più che altri errori, cioè di persone che magari non avevano il titolo, quindi è andata molto bene. Adesso ci auguriamo che il governo rifinanzi quella misura, perché il mese di maggio non è meno serio del mese di aprile. Maria, hai altre domande per De Magistris? Sono soddisfatta. Solo un'ultima piccola, De Magistris. Prego. Quando immagina la riapertura dei musei? Così facciamo un esempio pratico. Questo dovremmo chiedere al ministro, sinceramente, perché decide lui. Ma io credo che, allora, sinceramente penso che nel mese di maggio, ovviamente lo dico sempre, non bisogna essere noiosi, ma bisogna dire, sempre con le distanze sociali, con le prenotazioni, sì, ad esempio, certo, adesso con le app, io credo che il mese di maggio è un mese in cui si può ipotizzare l'apertura dei luoghi della cultura e dei musei. Quello che sarà un po' più complicato, e bisogna trovare formule nuove, saranno i teatri, i cinema, ovviamente, perché là c'è anche la sicurezza degli attori e delle attrici. Ma i musei ritengo che a maggio il ministro possa programmare l'apertura, ci sono tutte le condizioni, adesso sono anche gli strumenti per poter prenotare, si mette in fila, poi la gente è molto disciplinata, ha capito che si deve anche autodisciplinare per difendersi. Grazie De Magistris, Luigi De Magistris, sindaco. Grazie di Napoli. Buona giornata. Buon lavoro. Buon lavoro. Buona giornata e buon lavoro. Oh, prima di andare alla pausa, Maria, vuoi dirci, sì, un po' cosa hai pescato sui giornali internazionali? Fammi solo ricordare che poi dopo avremo anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, quindi insomma, vai Maria, prego. Nord e sud questa mattina. Vi stavo leggendo questo articolo di Marie-Cécile Renault, che dice che l'opinione pubblica francese è inquieta perché ci sono decisioni contraddittorie, mancano le maschere, ci sono ritardi dei test per il Covid-19 e dunque l'opinione pubblica si interroga sull'organizzazione della catena di comando. Ma c'è un pilota che guida? Ci sono troppi interlocutori, troppe agenzie, troppi comitati di esperti, la burocrazia che peggiora l'agilità necessaria di fronte alla crisi. Vedi com'è, vi suona familiare questo? Dunque, non male, abbiamo non male. Un bisogno europeo di azione, perché come vedete le obiezioni che fa Le Figaro all'azione del governo francese sono le stesse che si fanno in Italia. E penso che sia utile, le stesse che si fanno adesso in Gran Bretagna, dove il titolo del Guardian è: attenzione a mollare il lockdown perché potrebbero esserci conseguenze pesanti. Dunque siamo tutti nella stessa barca, ma se non c'è una regia europea, caro Simone, come se ne esce? Chissà, siamo tutti nella stessa barca e tutti con la stessa task force, con la stessa quantità di task force, mi pare di capire. 349-238-6666 per gli sms, messaggi su WhatsApp, anche audio, e soprattutto audio, e l'800-24-0024 per intervenire in diretta. Pausa. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Mattino. Che poi devo dirti, Maria, io non è che sia tanto d'accordo a pensarci bene su questa cosa della regia europea, perché insomma ogni paese ha la sua pena e ha i suoi problemi, no? Insomma, quindi. Beh, no, i problemi per essere... esempio che vediamo tra Francia e Italia sono più o meno gli stessi: ritardi negli arrivi di mascherine e prima ancora di ventilatori, dubbi su come riaprire le aziende, dubbi su come riaprire le scuole, perché Macron ha detto si riaprono, ma già domenica sera il premier Edouard Philippe ha detto riapriremo gradualmente, sì, regione per regione. Sono cose molto comuni. Sì. E soprattutto sai che cos'è comune? Quando arrivano i soldi agli imprenditori temone, e alle aziende, perché questo è il tema europeo. Temone. Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, buongiorno, bentornato ai nostri microfoni, eccoci. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Maria, prego. Sì, buongiorno Fontana. Buongiorno. Allora, a proposito di riaperture regionalizzate, lei si è detto contrario, ma in realtà, lo stavamo dicendo prima, è quello che stanno facendo un po' tutti. Anche in Francia il premier Edouard Philippe ha detto: cominciamo dalle regioni che sono state meno toccate dal virus. Purtroppo la Lombardia è tra quelle invece sicuramente più flagellata. Non crede che abbia senso una gestione, come dire, che tenga conto delle diverse realtà? Ma io credo che sia una riapertura monca, zoppa, che a quel punto non consentirebbe un equilibrato sviluppo neanche alle regioni che aprono. C'è una tale interconnessione sia fra le varie filiere produttive che fra le varie attività commerciali che c'è veramente grosso rischio che faccia più danni che vantaggi un'apertura così a spizziche bocconi, a macchia di leopardo. Ma perché Fontana? Io guardi, lo dico da persona che vive in Lombardia, vive a Milano, sì. E quindi con tutto il fatto che sono il primo che vorrebbe tornare ad uscire, eccetera, cioè al di là di queste due ore nelle quali vengo al lavoro. Però insomma è oggettivo che ci sono regioni, abbiamo spiegato poco fa De Magistris, no? Napoli è a contagi zero. Ci sono regioni come il Molise, l'Umbria, nei quali i contagi praticamente non ci sono. È vero che è tutto interconnesso. Però è vero anche che ci sono attività come quelle locali che probabilmente in alcune regioni possono ripartire molto rapidamente. Ma se si tratta delle attività del negozio di vicinato, va benissimo che le cose siano diverse. Però io sono assolutamente convinto che la riapertura debba avvenire nel momento in cui comunque il rischio del contagio si sia concluso o comunque si avvicina alla conclusione su tutto il territorio, perché proprio per le connessioni, proprio per i collegamenti che comunque saranno necessari, c'è il rischio che il contagio possa riprendere senza sapere da dove riparte. Io penso che sia una valutazione che debba essere fatta nella globalità. Vede, noi non è che vogliamo aprire rischiando. Io ho sempre detto e sostenuto che la riapertura deve essere subordinata alla sicurezza. Credo anche che fin tanto che non si individuerà una medicina, un vaccino, noi dovremo convivere con questo virus. Adesso Montagnier ha detto che secondo lui dopo un certo numero di giorni scompare. Speriamo che abbia ragione. Se così fosse. Sì, Montagnier ha anche detto delle castronerie, Fontana, bisogna dirselo, in tutta sincerità. Io non lo so, non sono un tecnico, le riferisco quello che ho sentito dire. Ma se così non fosse, se cioè il virus continuasse a rimanere sul territorio, il rischio è che si dovrà convivere, si dovrà imparare a convivere, perché non potremo per tutta la vita dividere l'Italia e le parti contagiate lasciarle escluse dalle altre. E per convivere con il virus si dovrà ovunque assumere alcuni stili di vita che sono diversi da quelli che ci sono adesso. Ecco, se fosse una questione temporanea, ma ripeto, io temo che la necessità di convivere con il virus debba durare ancora parecchi mesi. Salvo che non abbia ragione Montagnier. Fontana, mi faccia capire come pensate di utilizzare, sperando appunto che non debba essere utilizzato in una nuova tornata di terapie intensive, l'ospedale che è stato costruito molto rapidamente, e di questo siamo, come dire, fieri tutti, in fiera, perché è costato 20 milioni ed è stato utilizzato pochissimo. Questa mattina sui quotidiani si legge addirittura che ci sono pressioni per mandare malati, trasferire malati in terapia intensiva da ospedali di Milano a quell'ospedale lì, con i rischi che questo comporta per il malato. Dunque, come pensate di utilizzare questo ospedale che al momento non sembra svolgere diciamo l'attività per la quale era stato pensato? Ma io innanzitutto rimango sempre stupito di fronte a questa domanda. E rimango stupito io che dovrei appartenere alla categoria dei politici che non sanno progettare e non sanno programmare il futuro. Una volta tanto che viene fatta un'iniziativa che va nella direzione di programmare e di progettare il futuro, viene subito contestata. Vede. Io spero che questo ospedale si svuoti e che nessuno ci rientri, ma questo ospedale è stato costruito nel momento di massimo picco del virus, quando sembrava che ormai, anzi sembrava, quando ormai i posti nelle terapie intensive erano finiti, aumento di numero di posti nelle terapie intensive non poteva essere realizzato e noi temevamo che la cosa andasse avanti. Grazie a Dio non è stato così, ma noi dovevamo, e questa è una richiesta che è stata fatta dagli esperti, dai nostri virologi, dai nostri intensivisti, bisognava preparare, loro la definivano una diga nel caso in cui si fosse verificato il superamento dell'argine da parte dell'epidemia. È una previsione, questo è qualcosa che può servire per il futuro, questa è una cosa che io mi auguro non debba mai servire. Ma poi la seconda considerazione, vedi, una delle contestazioni che è stata mossa all'Italia è che ha 5 volte in meno i posti in terapia intensiva rispetto alla Germania. Beh, viva Dio, cerchiamo di aumentarli, cerchiamo di avvicinarci alla Germania. E poi non sono il solo che ha avuto questo pensiero, perché in questa direzione è andato il presidente Bonaccini, in questa direzione è andato il presidente Cerisoli delle Marche e in questa direzione pare stia andando il governo. Se vero come vero che il ministro Speranza mi ha detto che vorrebbe realizzare qualcosa di analogo al centro e qualcosa di analogo al sud. E noi dobbiamo cercare di guardare. Cano Fontana, sì. I medici che mancano a questo nuovo ospedale della Fiera, perché a questo punto, visto che c'è, si potrà utilizzare anche per altro. Cioè, la mia domanda era: come lo utilizzerete? Questo lo valuteranno i tecnici. Adesso vede anche quel riferimento che lei faceva a trasferire i malati che attualmente sono in alte terapie intensive, al di là del fatto che sono scelte che faranno i nostri esperti, ma è una proposta che è stata fatta da loro per cercare di liberare gli ospedali. Lei tenga conto che oggi le terapie intensive sono all'interno delle sale operatorie. Se noi vogliamo che gli ospedali ritornino ad essere normali e ad operare chi ha l'ernia piuttosto che chi ha altre patologie, bisogna liberare le sale operatorie. Fin tanto che le sale operatorie sono terapie intensive, certe operazioni devono essere rinviate. Andava in quella direzione, esclusivamente in quella direzione. Fontana, mi scusi, per i medici, perché sembra che non voglia rispondere. Vede, noi stiamo da 2 anni, quando io sono diventato presidente, sto chiedendo di darmi la possibilità di assumere più medici ed infermieri. Sì. E quando parlavo di autonomia usavo proprio sempre questo esempio. Purtroppo la storia mi ha dato ragione. Se avessimo avuto la possibilità di assumere più medici ed infermieri, avendo le risorse per farlo ed essendo invece ciò impedito da una legge nazionale, dalla finanziaria del 2014, forse avremmo potuto affrontare con meno ansia anche questo evento. Fontana, a proposito appunto dell'incremento delle terapie intensive, questa è in parte collegato a questo, c'è una delle accuse che vi vengono mosse, no? Si dice avete fatto, come dire, un'operazione ospedale centrica dimenticando completamente la medicina di territorio, i medici di base, come le direttive che dovevano ricevere, i dispositivi di protezione, contribuendo in particolare nella zona della Bergamasca a far esplodere il virus nel modo nel quale è esploso. Ma guardi, è un'accusa, così come è stata comunicata, nella quale, come è stata riferita adesso, alla quale c'è dentro tutto. Nel senso che i dispositivi di sicurezza, viva Dio, avrebbero dovuto esserci procurati da chi gestisce, da chi deve gestire le emergenze nazionali. Quando si tratta di epidemie di carattere internazionale, lo dice la Costituzione, è compito dello Stato. Quindi noi abbiamo cercato di supportare il fatto che non c'è, magari, che non è un'accusa questa, è un dato di fatto. Anche noi abbiamo cercato di comprare nel mondo e non era facile trovare i dispositivi, perché nel momento in cui è partita la pandemia, nel momento in cui tutti si sono resi conto che erano potenziali vittime, chi produceva questi prodotti non li vendeva più, era una cosa, un dato di fatto oggettivo. Quindi sui dispositivi noi abbiamo fatto quello che abbiamo potuto e lo Stato ha fatto quello che ha potuto, e noi abbiamo cercato di supportare lo Stato nella ricerca di questi dispositivi che oggettivamente non c'erano. Sull'ospedalizzazione, vede, chi fa questa accusa e chi non ha visto quello che stava succedendo, è bellissima come accusa da un punto di vista estetico. Guardi Fontana, mi scusi, arriva anche dai medici di Bergamo, non è che sì, è un'accusa di chi non vede le cose, cioè è un'accusa di chi... Lei capisce che i medici di Bergamo, a parte il fatto che poi ci sono medici che dicono una cosa, medici che dicono un'altra, quando una persona non respira, quando una persona rischia di morire soffocata, o lei la porta in ospedale e la mette prima in terapia subintensiva e poi nel caso peggiore in terapia intensiva, o lei a casa quella persona non la può curare, è nella impossibilità. Se lei fosse andato a visitare i pronti soccorsi di quelle giornate, lei avrebbe visto 80-90 persone all'interno del triage pronto soccorso che non riuscivano a respirare. Quelle erano persone che dovevano essere ospedalizzate, non potevano essere curate in modo diverso. Non ci sono alternative. Io ho parlato con i nostri rappresentanti dei pronti soccorsi, i nostri medici che hanno assistito queste persone. Quindi si può dire tutto il contrario di tutto. Io parto da presupposti di chi questa storia l'ha vissuta in prima persona. Certo, e purtroppo credo che la stia ancora vivendo, per carità, non voglio rubare il mestiere ai medici e non ne sarei proprio assolutamente in grado. Io riferisco. Ho una curiosità. Dopo 6 settimane... chi si sta ancora contagiando in Lombardia? Ce lo chiede tra l'altro anche un ascoltatore. Cioè, da dove arrivano gli ultimi contagi? Guardi, questa è una domanda che, come lei ha fatto, giustamente detto nella sua premessa, dovrebbe essere chiesta a un epidemiologo. Lavoro ancora più difficile e di più difficile interpretazione. Io credo che questo, tenuto conto che l'infezione si manifesta dopo 2-3 settimane, lei tenga conto che comunque ancora nella nostra regione ci sono persone che vanno a lavorare, ci sono persone che hanno un'attività. È possibile che sia avvenuto attraverso qualche contatto di questo genere, però è una domanda esclusivamente da epidemiologo. Non posso fare io delle supposizioni, ma sono supposizioni che lasciano assolutamente il tempo che trovano. Non mi sento di dare una risposta che abbia una valenza minimamente scientifica. Presidente, non ritiene che non abbiate nulla da rimproverarvi? Ma guardi, io credo che chi è convinto di non avere sbagliato niente sia un po' presuntuoso. Io credo che abbiamo fatto tutte le scelte che abbiamo ritenuto e che continuiamo a ritenere migliori. Scelte che oltretutto, come lei può immaginare, non essendo io medico, in nessun momento mi sono assunto l'ardire di decidere da solo. Io valutavo le proposte che mi facevano i tecnici e con i tecnici decidevamo. Abbiamo esperti, abbiamo docenti universitari al nostro fianco, abbiamo avuto persone che di mestiere fanno questo. È chiaro che prima di prendere ogni decisione è stata fatta una valutazione condivisa fra tutti coloro che se ne intendevano. Io credo che sia stato fatto tenuto conto anche delle condizioni drammatiche che abbiamo vissuto, perché non bisogna, vede, tutte queste accuse trovano fortunatamente un limite, che se fosse stato sbagliato ogni scelta, a questo punto tutta la regione Lombardia avrebbe avuto gli stessi numeri e gli stessi drammi, e qui mi lasci dire che sono vicino a tutte le persone che hanno subito un dramma di questo genere. E invece non è andata così, ci sono delle province, Varese, Como, Lecco, Sondrio, la stessa Milano, che sono stati solo sfiorati da questo virus. Allora, se le scelte sono sbagliate, avrebbero dovuto essere sbagliate ovunque, avrebbero dovuto dare gli stessi risultati, gli stessi numeri ovunque. Se fosse stata colpa della ospedalizzazione, anche in queste parti del nostro territorio ci sarebbero stati gli stessi risultati. Invece, se lei guarda, sono tutte province che hanno avuto dei numeri che sono migliori di tante altre regioni d'Italia. Evidentemente lì si è concentrata questa tempesta terrificante. Lì il virus probabilmente stava circolando da mesi senza che nessuno se ne fosse accorto. Lì sono territori nei quali c'è una circolazione e c'è una concentrazione di persone talmente alta che evidentemente si è verificata una situazione che è paragonabile a cosa? Alle grandi città, è paragonabile a New York. Se lei guarda i numeri della Lombardia sono migliori di New York, a Madrid, e noi i numeri della Lombardia sono migliori di Madrid, a Bruxelles. Ma questo per dire che noi dobbiamo essere paragonati, soprattutto in quella zona, a quel tipo di realtà. Allora, la ringraziamo, a meno che Maria tu non abbia un'ultima rapida domanda per Fontana. No, ringrazio anch'io il Presidente Fontana. Dobbiamo chiudere, abbiamo un altro tema che vogliamo affrontare correlato a Covid. Grazie a Tilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, alla prossima. Noi ci fermiamo, c'è una breve pausa e poi parleremo della questione che ha a che fare, di due questioni. La prima ha a che fare con le aziende straniere che vogliono, per così dire, fare shopping a prezzi di saldo in Italia. Una pausa. Mattino. Ed eccoci di nuovo con Adolfo Urso, vicepresidente del COPASIR, il Comitato Parlamentare di Controllo sui Servizi. Buongiorno Urso, benvenuto. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Buongiorno. Maria, prego. Allora, sono giorni importanti per il COPASIR, perché sappiamo che avete una serie di audizioni nei limiti di quello che ci potrà dire, ci spiegherà il perché. Volevo raccontare molto sinteticamente che cosa sta facendo il COPASIR in questi settimane, in questi mesi, perché c'è allarme per il fatto che le banche non possano essere a disposizione magari degli imprenditori italiani, ed è quello che mi pare vogliate chiarire. C'è allarme per shopping di aziende italiane in difficoltà, che evidentemente saranno più facilmente, potrebbero essere più facilmente preda di interessi internazionali. E poi l'ultimo allarme che si è aggiunto è quello che riguarda la app che dovrebbe essere utilizzata per controllare il tracciamento dei contagiati e che potrebbe in qualche modo fornire dati all'azienda che ha una partecipazione cinese al suo interno. Tanta roba, Adolfo Urso. Vorrei cominciare dalle convocazioni che avete intenzione di fare, perché? Sì, nei prossimi giorni la nostra attività conoscitiva sul settore bancario e assicurativo, iniziata già prima dell'emergenza del coronavirus, perché è iniziata nel gennaio di quest'anno, sulla base di dati che erano già allarmanti. Mi riferisco senza ombra di dubbio, per esempio, alla relazione annuale presentata in Parlamento nel febbraio del 2018 dall'allora governo Gentiloni sullo stato di sicurezza del Paese. E già in quella relazione pubblica era evidente come vi fosse una regia straniera nell'opera di colonizzazione predatoria, i termini sono di quella relazione, in atto nei confronti di imprese italiane che operano in alcuni settori strategici. Quell'allarme è del febbraio 2018, non a caso io ho presentato una proposta di legge per istituire una commissione di inchiesta parlamentare su quei fenomeni già nel 2018. Il COPASIR quindi aveva già attuato una indagine conoscitiva sul settore delle telecomunicazioni, questo già nella presidenza Guerrini, e quindi già nel 2018, conclusa nel dicembre dello scorso anno, in cui nel settore delle telecomunicazioni e quindi nel 5G e quindi anche per quanto riguarda l'app Immuni, noi evidenziavamo come non fosse a nostro avviso possibile consegnare l'infrastruttura delle telecomunicazioni alle aziende cinesi, perché esse operano con un sistema di potere che di fatto li obbliga a diventare esse stessi strumento, ove richiesto, dei servizi segreti cinesi. E quindi proteggere i nostri dati, dati dei nostri cittadini, delle nostre imprese, del nostro Stato, da possibili incursioni ed azioni malevole. E quel rapporto è pubblico perché è stato presentato in Parlamento, e in quel rapporto alla unanimità il Copasir dava delle indicazioni precise al Parlamento e al Paese per proteggere le infrastrutture delle telecomunicazioni dalla tecnologia cinese. Ora l'indagine riguarda il settore bancario e assicurativo, dico già attivata prima del coronavirus, ma oggi ancora più, come dire, necessario, perché il Paese si è ulteriormente indebolito, lo dimostrano anche i dati sulle nostre aziende quotate in borsa, che hanno perso una gran parte del valore, e quindi è possibile che oggi accada quello che già temevamo prima, cioè altre azioni predatorie di shopping di quelli che sono gli asset strategici del paese, a cominciare ovviamente da banche e assicurazioni. Sì, per quanto, Urso, ovviamente le nuove norme sul Golden Power, ossia questa possibilità da parte del governo di bloccare acquisizioni ostili anche intraeuropee, per certi versi dovrebbe tutelare da rischi di questo genere. Più in generale, Urso, lei vede un rischio di accrescimento, magari è già in atto, l'accrescimento dell'influenza cinese su questo paese e dell'influenza russa? Guardi, basti rilevare il fatto che ieri persino la Merkel ha chiesto spiegazioni al governo cinese su come sia nato questo virus e su perché sia stato dato tardiva allarme al mondo. Lo avevano fatto prima Trump, Macron, il premier australiano. L'Italia, che è la principale vittima, mi sembra strano che non abbia chiesto a sua volta chiarimenti ufficiali al governo cinese. Ma al di là di questo aggiungo che sì, è vero che la Golden, cioè lei dice, Power, prova dell'influenza è il fatto che non abbiamo chiesto spiegazioni al governo cinese. Ma siamo la principale vittima, e noi, a differenza dei nostri alleati internazionali europei, atlantici, da Trump al premier australiano, quelli atlantici, ma certamente ancor più significativo la Macron e la Merkel ieri, chiedono informazioni precise al governo cinese sulla causa reale del virus, perché vi sia stata così tardiva comunicazione al mondo, e noi non lo facciamo. E questo ovviamente può significare che non si vuole disturbare il manovratore, magari perché esso è oggi fin troppo influente nel nostro paese. Ma al di là di Fisco, questo, D'Urso, se capisco, voi state lavorando su due fronti. Uno è quello di capire se ci sono grandi potenze al di fuori dell'Europa che stanno puntando alle debolezze, alle fragilità dell'economia italiana, e l'altro capire se in questo momento le aziende italiane riceveranno sufficienti aiuti dalle banche. È così? Sì, certo, ma con una precisazione, che non si tratta soltanto di attori stranieri fuori dall'Unione Europea, non è soltanto la Cina o i fondi sovrani asiatici o islamici, perché nel recente provvedimento del governo, che personalmente ho sollecitato ripetutamente con dichiarazione e con me l'intero Copasir, si prevede in via emergenziale che la Golden Power, oltre che essere estesa ai settori bancari e assicurativi come avevamo chiesto, e alla filiera alimentare e sanitaria, riguarda quindi anche soggetti dell'Unione Europea che possono approfittare della debolezza delle imprese italiane per appropriarsene. E perché questo va detto e sottolineato? Perché, come emerge dalle relazioni pubbliche, ancorché non siano citati i paesi, è evidente a tutti che già alcuni paesi e le loro aziende hanno approfittato della recessione derivante dal 2008 che ha colpito l'Italia più di altri paesi europei per appropriarsi di settori strategici nel nostro paese. E questo allarme, peraltro, non è soltanto un allarme italiano, perché perfino la Commissione Europea, nel dare le direttive, nelle linee guida delle direttive sugli investimenti esteri, ha consigliato gli Stati dell'Unione Europea di elevare gli scudi, anche lo scudo, cioè della Golden Power, anche nei confronti di aziende intraeuropee. Per quanto riguarda le banche e assicurazioni, evidente a tutti che nell'ultimo periodo sono altri soggetti che si sono appropriati delle nostre banche, delle nostre assicurazioni. E il fenomeno che noi vogliamo osservare è anche quello che prima Latella diceva. Banche e assicurazioni sono i due polmoni del nostro sistema paese, perché hanno nella loro pancia i titoli di Stato. Urso, quindi... mi scusi, siamo praticamente in chiusura, mi perdoni. Un'ultima domanda, solo un sì o un no. Sull'influenza cinese avete intenzione di convocare Di Maio? Ma Di Maio già doveva venire al nostro comitato, perché dal nuovo incarico di ministro degli esteri era stato convocato, poi la convocazione è stata rinviata di giorno in giorno. Io credo che sia necessario, domani ne parlerò esplicitamente nella riunione del comitato presieduto da Volpi, per chiedere appunto di accertare come sia accaduto tutto ciò e perché il nostro governo, a differenza di altri, non... agisce per avere chiarezza sulla questione cinese. Grazie Adolfo Urso, vicepresidente del Copasir. Maria, a domani. A domani, buon lavoro a tutti. Ciao. A domani, ciao.